La versione di Oscar Giannino. 16.30 primi spaccati in diretta dai studi di Milano. Vi saluta Oscar Giannino e vi ringrazio per l'ascolto in diretto in podcast della versione di Oscar. E vi ricordo l'indirizzo, lo sapete, comunque lo ripeto, la versione di Oscar @radio24.it. Vi dico subito, se volete telefonarci all'800 24 00 24, che parliamo di questo argomento molto scottante, molto animatore di polemiche, nei talk televisivi tutte le sere, sui siti dei giornali, per interventi di politici, magistrati, scrittori, intellettuali, eccetera. Cioè, di che cosa? Di questo tema che è esploso sempre di più negli ultimi tempi e che si è arrovantato per le dichiarazioni del procuratore di Catania Zuccaro su il possibile ruolo che alcune ONG svolgerebbero, uso apposta il condizionale, nel avere contatti con i trafficanti, ohimè, di carne umana tramite il corridoio libico verso l'Italia nel Mediterraneo, e quindi sull'ipotesi che alcune, sottolineo tre volte, alcune ONG li raccolgano immediatamente a limitare delle acque costiere libiche, facendo venir meno quindi il rischio dell'esposizione diretta dei trafficanti con il metodo tradizionale dei barconi che si inoltravano nel Mediterraneo, nelle acque internazionali, ma effettuando un vero e proprio servizio di raccolta richiesta, chiamiamola così per capirci. È un tema molto delicato sul quale, secondo me, comunque chiamateci e diteci come la pensate, se c'è un errore da non commettere è quello di dividersi in due grandi partiti dicendo: ma cosa dite, queste sono strumentalizzazioni del partito anti-immigrazione, mancate di rispetto a chi salva le vite in mare. E si dà da fare, gli ONG lo fanno in maniera sussidiaria, al di là e oltre i mezzi messi in campo, in questo caso oltre che dalle forze navali italiane, guardia costiera e marina militare, ci sono le due missioni internazionali, EUNAVFOR-MED e SOFIA. Perché evitare questo errore? Perché comunque, non essendo abituato a considerare quando parla un magistrato a non dare peso a quello che dice, le dichiarazioni del procuratore Zuccaro, anche se hanno fatto saltare anche me negli ultimi due giorni per l'eccesso di passaggi che mi hanno colpito negativamente, perché un conto è dire sto lavorando su delle ipotesi, come prima aveva fatto capire, vi citerò poi dei passaggi di un'audizione parlamentare che ha tenuto, che è stata molto interessante, che ha dato per così dire ufficialità alla cosa di cui parliamo. L'audizione parlamentare era del 22 marzo scorso, nel corso di un'indagine conoscitiva del Comitato Parlamentare di Controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. Ecco, da allora il tema diventa ufficiale, cioè c'è il crisma di una procura, di un capo della procura che ne parla apertamente di questo ruolo. E devo dire, nell'audizione della procura io avevo fatto un salto, perché c'erano degli elementi molto molto molto ben precisi di indagine, ma ben precisi. Nelle ultime dichiarazioni il procuratore, travolto dalle polemiche perché si è scatenata la guerra, tutti sì o tutti no, interventi come quello di Roberto Saviano, di Henry De Luca, che capisco e comprendo visto il profilo dei loro interventi, tuttavia hanno alimentato un'esplosione politica di problemi. A questo punto c'è stato esponente del CSM, indicati della destra, membri del CSM, che chiedono l'apertura di un fascicolo a tutela del procuratore Zuccaro, come se ci fosse una persecuzione politica. Il ministro Orlando non ha potuto nascondere temi di una certa seccatura, invitando comunque i procuratori a far parlare gli atti e non le parole, il che è anche giusto, naturalmente. A questo punto l'errore peggiore è quello di dire Zuccaro è uno della destra anti-immigrazione e la sinistra deve tacitarlo. Non è questo. Perché? Allora, la curiosità nostra, sto dicendo come Radio 24, nasce più di 2 mesi fa con alcuni episodi di tipo giornalistico. Per esempio, nella mia trasmissione Il Conte della Belva, quella che conduco anche domani dalle 10 alle 12 con Carlo Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminerio e Renato Cifarelli, un amico che interviene spessissimo, ha una rubrica quasi fissa nella nostra trasmissione, Udo Gumpel, uno dei più noti e storici corrispondenti tedeschi in Italia per la rete televisiva NTV, ci racconta, essendo andato a bordo di unità navali militari tedesche che fanno parte di Eurnavformed, che agisce nel Mediterraneo, ci racconta quello che ha visto e sentito e i commenti da parte degli ufficiali della Marina Militare tedesca in questa unità, in questo servizio, e ci racconta esattamente quello che oggi è materia incandescente di polemica per le dichiarazioni del procuratore di Catania. Cioè ci racconta di aver visto sui radar della nave militare presso cui svolgeva il suo ruolo di corrispondente esattamente questo addensarsi di unità navali di ONG col transponder spento nelle prossimità vicinissime al limite delle acque territoriali libiche, in attesa, porsi in attesa e lì fare il recupero. Allora, di lì in poi, in realtà, è tutto un susseguirsi di cose di questo genere. E ricordiamo che non è un caso, perché i giornali tedeschi, evidentemente per effetto di notizie giornalistiche come quella di Udo Gumpel che dava a noi, iniziano a scrivere con Die Welt. Già dalla fine di gennaio scrivono e intervistano Frontex, l'agenzia europea, scrivono di questo, di questa evidenza che ci sarebbe agli occhi delle unità tedesche di un addensarsi troppo vicino alle metà delle acque libiche di mezzi di alcune, sottolineo alcune, organizzazioni ONG per non destare sospetti. Allora, la faccio brevissima perché i passaggi sono tanti di questa vicenda. Vi dico solo che se andate a scaricarvi l'audizione, è pubblico, quindi lo trovate, l'audizione in Parlamento del 22 marzo del procuratore Zuccaro, troverete una descrizione molto accurata non solo delle diverse ONG che operano, e anche lui parla sempre di alcune, cioè lui non generalizza affatto, e fa i dati di coloro che sono i profughi arrivati attraverso queste modalità di raccolta, e dice se è così è in violazione di legge. Quindi noi intanto come procura di Catania apriamo un fascicolo e ci riserviamo di accumulare elementi nei confronti di coloro che sbarcano nel territorio scusate catanese, di cui siamo competenti come procura. Questo è lo sfondo della vicenda. Oggi sui giornali trovate un ulteriore sviluppo, perché si inizia a capire meglio che le segnalazioni di cui parla il magistrato catanese, ogni volta sottolineando non è tuttavia materiale utilizzabile giudiziariamente, beh, iniziano a prendere un corpo, cioè si capisce di che cosa si tratta. E allora, e qui mi fermo prima di andare agli ospiti, prima di dividerci tra il bene e il male o una polemica politica destra contro sinistra, il problema diventa: di che materiale si tratta? Da dove vengono? Sono attendibili? Perché, parliamoci chiaro, anche se a me non è piaciuta la frase di Zuccaro che dice questa è un'ipotesi, potrebbe essere un'ipotesi di una triangolazione di alcune ONG con i trafficanti di carne umana per destabilizzare l'economia italiana, che mi sembra una maniera impropria, perché a molti ha ricordato il procuratore di Trani, quello sull'indagine sulle agenzie di rating, cioè quando la magistratura, invece che stare sulle carte e sui dati, inizia a fare discorsi da bar sport e a parlare di complotti internazionali. Non mi sono piaciute quelle parole, ma tuttavia cerchiamo di capire meglio. Allora, da una parte evitiamo la generalizzazione, e quindi questo spiega perché abbiamo il primo ospite, no? Il primo ospite perché abbiamo scelto di far parlare il direttore dei programmi Italia Europa di Save the Children, che è con noi, la ringrazio, Raffaella Milano. Buon pomeriggio. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, che le sembra Innanzitutto le chiedo sempre, come faccio con gli ospiti, se è secondo lei abbastanza corretta la mia sintesi, però ci interessa capire come la vedete voi tutta questa vicenda, un po' rognosa, diciamoci le cose come stanno. No, io vedo molto corretta la sua sintesi, perché qui dobbiamo sicuramente mettere insieme due esigenze. Da un lato quella della massima trasparenza, ed è assolutamente giusto che se ci sono degli elementi, se ci sono delle preoccupazioni, se ci sono delle evidenze di comportamenti così gravi, questi vengano alla luce. Non c'è, è chiaro, questo aiuta anche il nostro lavoro come ONG. Dall'altra parte però dobbiamo evitare che un'azione così importante, ricordiamocelo, dall'inizio dell'anno nel Mediterraneo sono affogate 900 persone. Donne, bambini, questo sta succedendo, quindi è una tragedia immane. Evitiamo di gettare un'ombra di sospetto su quanti, e non parlo solo delle ONG, parlo anche della Guardia Costiera, di tutti i mezzi che in qualche modo in questi giorni, in queste ore, con il mare a qualsiasi forza e in qualsiasi condizione, stanno cercando di fare una cosa fondamentale, credo, per qualsiasi essere umano, cioè cercare di salvare delle persone che stanno affogando in acqua, perché di questo parliamo. Quindi ecco, quello che io magari noto, la necessità di mantenere un po' di rispetto in questo dibattito per una situazione che chi la conosce, chi la vive, chi la vede, sa quanto è dolorosa e sa quanto è diversa da qualsiasi semplificazione, no, che si possa fare. Ciò non toglie che se ci sono degli elementi, se ci sono delle cattive pratiche, se ci sono qualsiasi situazione che possa creare, anche mettere un'ombra di dubbio su quello che sta avvenendo, queste ombre vanno assolutamente eliminate, quindi bisogna fare chiarezza. In quell'audizione che ho ricordato a fine marzo del procuratore di Catania in Parlamento, c'era, a proposito del materiale che la procura di Catania si riserva di assumere come a corredo di queste altre informazioni che ha ricevuto e di cui parleremo dopo la pausa, infatti vi escludeva insieme ad altre nel novero delle 9 più importanti ONG che operano nel salvare vite nel Mediterraneo, perché dicendo, mentre noi per quelle internazionali, insomma, voglio dire, abbiamo un quadro dei finanziamenti, del bilancio, eccetera eccetera, quindi è del tutto compatibile con quello che sappiamo di loro, e vi citava esplicitamente, no, il fatto che abbiano anche propri asset impegnati in quest'opera meritoria, di altre non riusciamo a capire come sia coerente un ritmo di spesa e di dominio pubblico. Ce n'è in particolare uno di ONG, la MOAS, che veniva stimata dal procuratore con impegni di spesa rilevantissimi, non sappiamo né nulla dei loro finanziamenti. Dice, quindi è ovvio che noi dobbiamo lavorare, questo diceva in Parlamento il procuratore, nell'accertamento di questi flussi finanziari, perché diceva testualmente, dimmi chi ti paga e io capirò il perché. Questa distinzione tra ONG più trasparenti, oltre che più note per quello che fanno da decenni, e altre che operano, secondo lei ha un fondamento oppure no? Questo dovremmo cercare di vederlo, proprio come diceva anche lei, poi andando a vedere le evidenze. Io penso che sia assolutamente indispensabile che le ONG rendano noti i propri bilanci, le proprie fonti di finanziamento. Noi mettiamo tutto online, c'è il nostro bilancio, abbiamo più volte detto, ma appunto lo stesso procuratore l'ha ribadito, i fondi con cui sosteniamo queste attività sono fondi di donatori privati, quindi non istituzionali, che raccolgono donazioni peraltro che vengono da tante parti del mondo, perché poi queste scene, quello che è successo nel Mediterraneo è stato su tutti i media internazionali, quindi c'è stata tanta gente, anche donatori che hanno proprio voluto in qualche modo non voltare lo sguardo dall'altra parte e darsi da fare per aiutare il salvataggio delle vite umane. Questa prassi, diciamo, di rendere trasparenti e tracciabili ogni euro che entra all'interno di un programma di questo tipo, ma io direi di tutti i programmi delle organizzazioni non governative, è fondamentale. Però ecco, io non so dire, questo lo aspettiamo ovviamente dalle indagini, sarebbe bene, ecco, forse magari capire anche in che modo, in che tempi, poi al di là delle opinioni, no? Si può arrivare ad avere delle evidenze, capire se ci sono delle malpratiche o se non ci sono. Questo io chiaramente posso parlare per se decidere, no, certamente. Non sono in grado di parlare per tutti gli altri, però ecco, capisco che stare in uno stato di incertezza può creare molte diffidenze e difficoltà. Allora, io intanto ringrazio Raffaella Milano, che è direttore del programma Italia Europa di Save the Children, e ringrazio Save the Children per quello che fa. Vi dico subito, ma lo approfondiamo dopo la pausa per il traffico, che in realtà Zuccaro ha detto chiarissimamente che alcune agenzie, alcune agenzie che non svolgono attività di polizia giudiziaria, cioè sono i servizi segreti in parole povere, e stiamo parlando dei servizi segreti di paesi appunto come la Germania, l'Olanda, punto interrogativo se anche quelli italiani, ecco, continua virgolettato il procuratore, ecco, alcune agenzie hanno documentato i contatti, ma si tratta appunto di materiale che non può essere utilizzato processualmente. Anche se mi danno la conoscenza certa, parole del procuratore, che questo avviene. Che cosa avviene? Virgolette del procuratore. Ci sono dei natanti di ONG che superano i confini delle acque internazionali, staccano i transponder per non farsi localizzare e rendersi invisibili, che li deve monitorare. Vi sono ONG che prendono chiamate dalla Libia in cui si dice stiamo per mettere in mare i gommoni, intervenite. Pare che siano stati documentati comportamenti ambigui di marinai libici in divisa, che non si sa a quale corpo eventualmente rispondono. Ecco, queste sono le parole del procuratore, e la domanda è: ma se questi rapporti di intelligence esistono e sono prodotto di fonti ufficiali e ufficiose, la norma italiana dice che se non sono state compiute queste indagini a conoscenza e autorizzate dai magistrati italiani, non valgono nulla. Ho capito, ma ci sono? Se ci sono, è giusto dire tutti zitti perché si manca di rispetto all'ONG, oppure no? Ecco, approfondiamo tra un minuto. La versione di Oscar. Allora, abbiamo ricostruito nei mesi come nasce questa notizia, il fondamento che ha questa notizia su alcune ONG che fanno servizio taxi nel Mediterraneo, lo so, è un'espressione orrenda, che, come ipotesi, anche questi microfoni avete sentito chi mesi fa iniziò a parlare. Guardate che basta vedere sui siti internazionali, sui transponder delle navi, per capire che c'è qualcosa che non funziona. Abbiamo riferito alcune delle tante parole pronunciate da Zuccaro, ma con riferimenti a documenti sì non utilizzabili giudiziariamente, insomma chiaramente i documenti dei servizi nei quali si documenterebbero questi contatti. Ho detto io per primo che sono molto perplesso di fronte alle parole recentissimamente invece usate dal procuratore, perché tutti quei sembra, vedremo, chi lo sa, sembra che sia stato travolto dalla portata della polemica politica che è esplosa, ma resta il fatto che questi materiali pare che ci siano. Allora, invece che dividerci, forse è il caso di capire come se si possono utilizzare giudiziariamente, per capire, perché ripeto, stiamo parlando di un flusso troppo importante per far finta di non vedere, se queste evidenze ci arrivano da ciò che è stato elaborato da fonti ufficiali di altri paesi. A scriverne tra l'altro il Fatto Quotidiano, abbiamo con noi il vice direttore Stefano Feltri, grazie di esserti reso disponibile. Grazie a te Oscar. Qual è la tua opinione rispetto alla spaccatura della polemica, stai zitto procuratore oppure no, andiamo avanti e vediamo come utilizzare questi materiali, come si può fare per evitare che finisca tutto in bacca all'italiana? Questa è una buona domanda. Io credo che il procuratore si sia spinto un po' troppo in là. Lui ha denunciato un fenomeno, come dice, che però in realtà era già stato denunciato. C'è in corso un'inchiesta parlamentare, un'indagine conoscitiva del Comitato Schengen e della Commissione Difesa, che vuole proprio appurare questo. Tra l'altro a me insospettisce un pochino il fatto che il procuratore usi quasi le stesse parole di Fabrice Leggeri, che è il direttore di Frontex, che in Senato sostanzialmente ha denunciato le stesse cose di cui stiamo parlando sui giornali in questi giorni. Detto questo, il tema c'è, il tema è evidente, perché la stessa Procura di Catania ha disposto, ha fatto una circolare per dire che non bisogna più arrestare o fermare, anzi scusate, il migrante che è al timone del canotto o che ha il telefono satellitare, perché prima c'erano gli scafisti che dalle navi madri portavano i migranti vicino alla costa e poi li mollavano in attesa dei soccorsi, adesso per un insieme di ragioni, tra cui le azioni di polizia internazionale, queste navi più grosse non ci sono più e tutta la questione migranti, quindi anche tutti i drammi potenziali, si sono spostati vicino alle coste libiche. Il problema è che le missioni di pattugliamento europee con le milizie non arrivano così vicino alle coste libiche. Lì stazionano le navi delle ONG che quindi devono interagire con la Guardia Costiera libica, che lo dicono tutti i protagonisti coinvolti, è parte del problema e non parte della soluzione, sia perché non è in grado di gestire questi numeri, sia perché per la condizione del paese troppo spesso persone che non ricevono uno stipendio regolare possono essere tentate da arrotondare, diciamo così, con il traffico di migranti. Quindi il problema è con la Libia, non è con le ONG, per come la vedo io. Per cui la soluzione di questo problema si risolve se gli stati smettono questa condotta ipocrita e decidono due cose. O la linea, come dire, umanitaria, cioè l'azione internazionale arriva là dove serve, cioè arriva anche vicino alle coste libiche, li prende dove sono, oppure la linea, come dire, alla Vittorio Feltri o alla Salvini, cioè lasciamone annegare un po' così imparano a non partire. Però questa ambiguità in cui c'è una regia pubblica, quella della Guardia Costiera Italiana, che coordina navi di fatto private, come sono quelle delle ONG, perché il pubblico non vuole impegnarsi direttamente, è un'ipocrisia che sta creando il caos di questi giorni. E aggiungo solo una cosa, noi non sappiamo poi se queste navi sono sempre adeguate a intervenire, se magari non potrebbero essere salvate più persone con un'operazione diversa. È un po', come dire, è un po' una zona grigia in cui nessuno è responsabile, secondo me questo non è mai positivo. Ma ti faccio una domanda fondata sul nulla, ma è un'impressione sul mestiere e gli anni che lo fai. Io sono più vecchio, poi do anche la mia di risposta, però sono interessato alla tua. È ipotizzabile che, partendo dai servizi di cui ci parlò Udo Gumpel a questi microfoni, che evidentemente dai servizi tedeschi sono partiti dal basso, cioè dagli ufficiali delle navi militari tedesche impegnate nel dispositivo, quelli olandesi idem, ma è ipotizzabile che i servizi italiani non abbiano fatto lo stesso lavoro arrivato sul tavolo del procuratore di Catania, sia pur non utilizzabile, secondo te? No, a me risulta di sì. Ecco. A me risulta che l'intelligence italiana sia perfettamente a conoscenza di tutto quello che succede, per ovvie ragioni, perché la priorità dell'intelligence esterna, dell'AISE, è essenzialmente la Libia in questa fase, ed è il controllo, diciamo, ed è capire chi comanda dove nelle varie zone della Libia. Il traffico di migranti è l'unico sostanzialmente business internazionale della Libia, quindi l'intelligence è perfettamente al corrente di quello che succede, tanto che è stata proprio l'intelligence a organizzare poche settimane fa un incontro a Roma in cui si è parlato anche di immigrazione con protagonisti, diciamo, delle faide tribali. I famosi 60 capi tribù, che forse avremmo dovuto iniziare anni e anni fa a portare a Roma. Comunque, questo spiega. Tra l'altro, ecco, su questo c'è solo una cosa importante. Il governo Gentiloni, che è legittima, che investe quei finanziamenti solo sul governo di al-Serraj, non è, diciamo, peggiora un po' la situazione. Perché tutti gli altri dicono, ma come, noi niente, e quindi, come dire, se poi vogliono avviare ritorsioni, il traffico dei migranti è la prima leva esatto, di pressione. Anche se, bisogna dire la verità, la stragrande parte, cioè il flusso viene dalla parte, in teoria, controllata da Sarraj, che però controlla quasi niente. Io pongo questo problema della politica estera in Libia italiana, dichiarata pro Sarraj da moltissimo tempo, le risposte sono sempre, secondo me, non soddisfacenti. Io ringrazio Stefano Feltri, perché condivido parola per parola quello che ha detto, cioè dietro, secondo me, c'è una grande ipocrisia, e non facciamo finta di non saperlo, non tentiamo di liquidarla però in nome del fatto che porre il problema significa mancare di rispetto alle ONG, perché non è questo il punto. Il punto è, se stiamo dando una risposta a una priorità, cioè farne morire il meno possibile, ipotesi A. Ipotesi B è invece che stiamo facendo gli ipocriti per far passare un po' di soldi, magari sperando che questo ci risolva il problema in Libia. Attenzione che l'ipotesi B non è priva di una ragionevole possibilità di essere sospettata dal mio punto di vista, ed è quello che mi fa molto incazzare, perché l'Italia mi sembra molto opaca in tutto questo, e il tentativo di dire state zitti per l'esa maestà dell'ONG è anche, mi dispiace dirlo, io stimo De Luca, stimo Sappiano, non significa che condivido tutto, ma la loro posizione si presta esattamente a questo, a coprire un'opacità e a leggere sui giornali italiani che sono gli olandesi tedeschi ad avvisarci, e noi però li consideriamo materiale non utilizzabile. Grazie a Stefano Feltri. Sentiamo un po' le vostre telefonate, cominciamo con Francesco da Ravenna. Francesco, prego. Salve, buonasera Giovanni, buonasera. parlo da patentato internazionale senza limite, parlo di nautica naturalmente. Quello che mi ha sempre dato molto fastidio, parlo di leggi, quindi non faccio un discorso politico. Sì, sì, esatto. In questi vent'anni è una cosa che nessuno mai ha detto, e l'ignoranza sarebbe troppo elevata chiamarla come tale, perché dico questo. Faccio un esempio stupido così ci capiamo al volo. Se c'è un incidente a Moncalieri, l'ambulanza deve partire da Bologna o da Torino? Infatti. Morale, ci sono 280 miglia. È una questione di numeri, chi ci ascolta segua solo i numeri. Dalla costa italiana a 12 miglia è territorio in italiano. Dal 12esimo miglio al 24 è di competenza, ovvero se succede qualcosa deve intervenire l'Italia. Noi li andiamo a prendere a 260 miglia. È così. Ora, se uno, se io dall'Italia, da Bottovedetta, quello che può essere, ricevo un SOS, la prima cosa che devo fare è chiedermi, visto che mi dà delle coordinate, longitudine e latitudine, se è più vicino a me piuttosto che ad altri. Se è più vicino ad altri, io devo interpellare o navi che stanno transitando in quella zona oppure chi è di competenza. Perché se io mi metto a 13 miglia, appena fuori al limite delle acque nazionali, territoriali libiche, è chiaro che se io ho un'ambulanza privata, vado fuori Torino, parto da Ravenna, prima o poi uno che va sotto un motorino lo trovo, lo carico e faccio no, e faccio no, è chiarissimo quello che dice, perché cioè, vista le norme, stando lì, ecco chi è che li prende. No, questo è chiarissimo, però ripeto, c'è una regia pubblica in tutto questo, non facciamo finta di non vederlo, c'erano moltissime telefonate, questo è classicamente un tema da almeno un'ora, io mi scuso perché il tempo è finito. Sappiate che io penso che ci sia un'elevatissima ipocrisia pubblica dietro questa polemica e delle responsabilità istituzionali. Spero di essere stato chiaro. Continuate con la 24, appuntamento domani dalle 10 alle 12 con me, caro Alberto Caramale Maffè, Mario Seminero, Renato Cifarelli. Parleremo di Alitalia, parleremo del sindacato, del primo maggio e parleremo della